quell'altra, Dio Padre, Madre a Dio, quei Rodolfo, sì. Tante le ho messe io. Quella canzone lì di Rodolfo lei sì. Non lo troverà a nessune parti perché... Ma scusi, allora no, sia maledetti va, sia maledetti i giovani studenti, da dove l'ha presa? L'ho presa tra me e me, perché ho sentito qualche volta che i studenti facevano i operanti per volere questa guerra. Ma l'ha sentita da qualche d'un altro, in qualche altra canzone? Sentivo anche qualche parola quando che eravamo in Boccaleone, sia maledetti quei studenti che vogliono la guerra, una parola poi l'altra. Allora quella lì, la Dio Padre, eccetera, come finisce secondo lei? Mentre a Roma si aprivano le porte, viva Ulisse, Italia, libertà. È finita soltanto quella strofa lì? Sì. Finisce lì, finisce. Ugurisci a te, invece lei a Roma, è come ti mette di parole. Anche a Roma. Si apriva le porte. Mentre a Roma si aprono le porte. Cos'è che dice lei? Mentre a Roma si apre le porte, viva Trento, Trieste e libertà. Viva Italia. E tanti di più. Viva Italia e libertà. Gurizia, tu mettete però Gurizia, non è perché la chiamiamo. No, viva Italia. Anche Trento. Trento, sì. Italia, libertà, su di me. Ma lei è perché? Ce l'ha sa tutta soltanto quel punto lì di studenti che lei... Da fare la tua prima via sul lavoro, quella tua intriva, la sì, dai. Via, ma allora, diciamo così, io l'ho fatta come, eccetera, come solito. Fatela come dice sua sorella, nel senso. Ecco. È uguale, c'è soltanto quella strofa lì. Quella strofa lì, non la faccia. Via, via, via, via. Addio padre e moglie, addio, che per la guerra mi tocca partire, ma che fu triste il mio destino. Italia mi tocca morire, lascio la moglie con due bambini, ti prego mamma ma di guardarli tu, quando sarò in mezzo a quegli assassini, mi uccideranno e non mi vedrai più. Quando fu stato in terra tedesca, subito l'ordine a me m'arriva, mi dava salto la baionetta in canna, addirittura macello diventò. Compagni li vedo a fuggire, e ti ho per terra cascato costretto, mentre il tedesco lo vede a venire. Ferma tedesco, che sto per morire, pensa una madre che piange per me, ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale povera regna morte. Disgraziati che fanno pietà. E mentre a Roma si aprono le porte, viva Tunisia, Italia libertà. Voi altre mamme che soffrite così tanto per allevare i figli alla più bella gioventù, nel cuor vi resta solo lì e pianti per i vostri figli che muore lassù. Nel cuor vi resta dolori e pianti per i vostri figli.